Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Valdi Fiore a calciare al giro, arriva da dietro Tonelli, sempre Tonelli, ancora un gol di testa, il quarto della stagione per lui, il derby è in parità, 1-1 Franchi. Bravo Giancarlo Gonzalez, riparte il Palermo, Vázquez, Dybala e Barreto, è 3 contro 2, Vázquez al centro, cerca il pallonetto e segna un gol semplicemente magnifico, raddoppia il Palermo. Ancora De Silvestri, lotta con Pasquale, lancia lo sprint De Silvestri, il cross e arriva il 2-2, Gabbiadini ha pareggiato la Sampdoria con Gabbiadini su una splendida iniziativa di Lorenzo De Silvestri, arriva il pareggio della Sampdoria. Parte Farnerud, non esce il portiere, Mischia, colpo di testa, la manda, poi il gol. È arrivato per il tapin vincente Glick. Sì, oggi il nostro autore Giorgio De Luca e Paolo Corleone hanno scelto il rock per farci gli auguri e per salutare un pomeriggio divertente. 15 gol, 4 partite, prima c'era stato il derby di Verona, abbiamo visto tanti gol, tante occasioni, tanti motivi di discussione. Abbiamo visto tutti giocare per l'Inter, per il Milan, per quelli che sono rimasti attardati nella corsa al terzo posto, perché la classifica dice Juventus 39, Roma 36, Napoli Sampdoria 27, poi Lazio e Genoa 26, Milan 25, Fiorentina 24, Udinese Palermo 22, c'è l'Inter a quota 20. Pensate, se l'Inter questa sera batte la Lazio va a mangiare il panettone soltanto a 4 punti dal terzo posto. Ciao Carlo Genta. Ciao Giovanni Capuano. Però se la Lazio batte l'Inter va a mangiare il panettone da sola. Sì, ma considerato il disastro di questa prima parte chiaro. Della stagione dell'Inter, credo sarebbe un miracolo. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate fino alle 19, poi alle 6 arriva anche Pierluigi Pardo di passaggio verso San Siro. Poi parliamo anche di Antonio Conte, perché oggi Buffon ha chiuso definitivamente la pagina anche a livello di ricordo di Conte nella Juventus e si continua a parlare anche di possibili dimissioni da commissario tecnico. Prima però ci siamo divertiti, abbiamo visto una cosa bellissima, un gioiello, il gol di Vázquez del Palermo, bello, l'avesse fatto qualche altro numero 10. Sì, l'avesse fatto qualche altro numero 10, ne avremmo parlato per settimane, forse per mesi, e abbiamo visto tanti gol, partite divertenti, abbiamo visto il Genoa che si è incartato sul Torino, ma vinceva 1-0 e c'è stato un rigore su Matri, ne parlavamo prima. Piuttosto clamoroso, non concesso, poteva essere la seconda grande occasione per il Genoa. Abbiamo visto una partita molto natalizia a Bergamo. Una bella maglia, quella dell'Atalanta. Orripilante, maglia dell'Atalanta, orripilante. La scusa era quella dell'albero di Natale, 11 alberi di Natale in campo, 10 più il portiere, con un albero stilizzato, con questo colore verde che non so come mai si è diventato così di moda. Questione di marketing. Abbiamo visto tutto, sì. Quest'anno veramente abbiamo visto tutto, da Juventus Sampdoria giocata praticamente a maglie invertite fino alla maglia verde natalizia dell'Atalanta, che ha portato fortuna, sì, almeno nel secondo tempo. Una cosa divertente che devono anche giustificare il motivo, no? Cioè, basta dirlo, no, lo facciamo perché quelli del marketing ce lo impongono, non è che serve una giustificazione. Atalanta perché era Natale ed erano tutti verdi, il Cesena che gioca in rosa per omaggiare Pantani, sono ovviamente tutte giustificazioni strampalate, ma mi sembra siano altri temi. A proposito di partire, c'è Gabbiadini che ha fatto alla parete spaventosa, la Sampdoria ha rischiato l'osso del collo ma è riuscita a quantomeno a pareggiare con l'Udinese. La Fiorentina, secondo me, è presa a pallonate a tratti dall'Empoli. Sì, la Fiorentina meritava anche di perdere. 1-1 meritatissimo, è stata anche sfortunata. C'è stato un palo di Gomez, un paio di occasioni importanti. Anche qui c'è qualcosa da discutere, falli di mano e cose varie. In una domenica, in un fine settimana complessivamente non ottimo per gli arbitri, soprattutto per gli addizionali di porta. Paloschi, gol decisivo nel derby di Verona in fuorigioco. Poi c'era stato anche ieri sera dove la Roma sicuramente ha fatto vedere pochissimo, ma dopo la partita c'è stato da parlare soprattutto di un altro sport, di pallavolo. Roma che continua a spingere, il cross, palla sotto porta, ci è arrivato Diego Lopez, anche se qui ci sono proteste da parte dei giocatori della Roma. Del Vigno la tocca, ma anche De Jong la tocca. Anche De Jong? Eccolo qua, sì. Sì, sì, sì. Anche se bisogna dire che c'era anche una mano clamorosa nell'area loro su un calcio d'angolo per noi. O mettiamo, come previsto, dei giudici, dei arbitri d'area e allora prendono le loro responsabilità, o allora non le mettiamo più. Sì, direi che non li mettiamo più, sì. Probabilmente quello che accadrà per questioni di risparmi in un prossimo futuro. Non ne sentiremo la mancanza. No, vista questo fine settimana non ne sentiremo la mancanza. Garcia torna a parlare di arbitri, secondo me anche per mascherare un momento complicato della sua Roma, le ultime due in casa, Sassuolo e poi il Milan, due punti in due partite. Avesse vinto, come era ampiamente alla portata di questa Roma, viste le due partite, oggi, a prescindere da Rocchi, la Roma sarebbe prima in classifica. 8-0-0-24-0-0-24. La Roma dovrebbe anche piantarla con questa storia di Rocchi, perché ormai sta diventando pelosa. Quello che ha fatto Rocchi lo sappiamo, come è finita la partita di Torino lo sappiamo, però abbiamo visto, hai ragione tu, una brutta Roma con il Sassuolo, pareggiare per grazia ricevuta, anche grazia arbitrale. Abbiamo visto una brutta Roma ieri con il Milan, è vero il fallo di mano di De Jong, che abbiamo capito era fallo di mano dopo 5 replay, va bene, il giudice di porta era messo bene, non ha intervenuto, eccetera eccetera eccetera. Però a me Rizzoli è piaciuto pochissimo anche sull'episodio dell'espulsione di Armero, che termine regolamento ci poteva stare, però è stata pilotata dal comitato di accoglienza giallorosso, perché sì, il capannello di Keita e degli altri, esatto, a proposito di Keita, capannelli Totti, eccetera, se ricordi lì le parole di De Santis, che aveva detto alla Juventus sono organizzati, vanno in cinque sull'arbitro per fargli cambiare idea. A Roma no. Da ieri sera abbiamo smontato anche questo pezzettino di sistema, ma imparano la svelta, ragazzi, un pezzo per volta. 8-0-0-24-0-0-24. Credo che oggi avremo una sfilata di allenatori del delusi, a partire da Montella, secondo me anche Garcia, che pure nei numeri sta facendo meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso di questi tempi la Roma stava a 5 punti dalla Juventus, mentre adesso i punti sono 3. Anche Garcia dovrebbe fare un ragionamento su questa incapacità di fare il saltino di qualità decisivo, e io ho citato Sassuolo e Milan, ma c'è anche ad esempio il modo in cui è stata gestita la doppia sfida con il Bayern di Monaco. Sì, Bayern di Monaco, ma anche la partita con il Manchester City, che ha escluso la Roma dalla Champions League. Non mi è piaciuta quella Roma, non mi è piaciuta la gestione di quella partita, eccetera eccetera. Poi possiamo raccontarci la storia dei fatturati, però regge solo fino a un certo punto. La verità è che la Roma ha giocato una buona partita contro l'Inter, che ti ricorderai. Probabilmente abbiamo sottovalutato la seconda Inter di Mancini, però quella partita la Roma la giocò bene e tutti quanti abbiamo detto va bene, si stanno riprendendo, sono in crescita di condizione. Invece no, l'ultimo mese e mezzo, gli ultimi due mesi della Roma sono stati niente affatto convincenti. C'è anche la Juventus, che fisiologicamente ha tirato il fiato a Firenze, ha fatto qualche pareggino magari inopinato, e quindi insomma proseguono. Poi è arrivato il bonus Zeman e poi vedremo domani Zeman, nella Supercoppa. Poi vi dico che cosa ha detto Buffon a proposito di Antonio Conte e della dipendenza della Juventus da Antonio Conte, dipendenza che non c'era. Adesso però ci fermiamo per il traffico. Sono Luciano Moggi e rappresento una parte bella e pulita della storia del calcio italiano e della Juventus. E questa storia di Moggiopoli e degli aiutini per le telefonatine deve finire. Scusate, chi è? Ah, Babbo Natale, Hai portato i regalini che ti ho detto? Tutti convocati. Veramente sfortunato, però il calcio è questo. Evidentemente il 2014 non è stato un anno benedetto per lui e ci auguriamo che lo sia il prossimo. Ilaria. Non è stato un anno benedetto per lui, Vincenzo, vuol dire per la Fiorentina non ci lui pensiamo è Gomez, più. Che, questo è Montella che sta parlando a Sky della delusione di questa Fiorentina, fermata sull'1-1 dall'Empoli in una partita, ripeto, anche giocata meglio dall'Empoli per larghi tratti. Tra i migliori c'è sicuramente il portiere della Fiorentina Neto, che nel secondo tempo ha compiuto un paio di miracoli. Intanto saluto Tony Damascelli, ciao Tony. Ciao a tutti. Ti faccio sentire il primo dei grandi delusi di questo pomeriggio, Montella. Proviamo a cogliere le prime parole di Montella Sky. Sul calcio d'angolo, l'Empoli è comunque una squadra che ha fatto tanti gol su palla inattiva, qui Rugani e Tonelli che sono hanno fatto... Sì, c'è stato troppo spazio tra il secondo e il terzo, insomma non vedo il numero tra Savic e quello davanti, troppo spazio che non ci doveva essere e quindi probabilmente è stato un errore di posizionamento iniziale. Sì, e poi c'è un allenatore come Sarri che queste situazioni le prepara benissimo e che, Tony, mi sembra faccia giocare bene benissimo l'Empoli in questo campionato in cui, a parte le prime due, vanno tutte pianissimo, però ci si diverte anche, almeno questo pomeriggio è stato divertente. Sì, per il numero di gol, un po' meno per gli errori della difesa, anche perché non si difende più. E quando si difende a zona, spesso sui calci d'angolo, sulle situazioni di palla inattiva, come si usa dire, può capitare questo tipo di errore. Il marcamento a uomo viene visto come bestemmia. Poi scopriamo a livello internazionale che certi allenatori, anche grandi allenatori, illustri allenatori, quando si ritrovano di fronte a un giocatore importante, gli mettono addosso un marcatore. Quindi la verità sta sempre nella normalità. Ho visto dei bei gol, ho visto delle clamorose... dei clamorosi errori, ribadisco, difensivi. Chi sta alle spalle della Juventus fino a stamattina, fino a ieri anzi per essere più precisi, pensava di molestare la Juventus in questo fine anno, non appena si è parlato di magia ligure e di momento romanista si è visto come è andata a finire. La Roma si attacca all'episodio di De Jong e penso che quell'episodio verrà trascinato fino a primavera secondo usi e costumi, però la squadra gioca male, gioca un calcio lentissimo che viene improvvisamente illuminato, si fa per dire, acceso, per essere più precisi, da Gervinho. Sì, è una cosa abbastanza scontata. Che in questo momento è l'unico che strappa, mi sembra, non so se sei d'accordo, che anche l'insistenza su Totti nelle ultime due o tre settimane sia un limite per questa Roma. Ma chi tocca da Totti muore in questo momento, cioè a Roma nessuno può discutere la grandezza di Totti, la carriera di Totti. Chi discute Totti è ignorante e in malafede, però noi dobbiamo discutere le prestazioni del Totti attuale e questa Roma è sotto schiaffo del suo capitano, oltre del suo capitano anche dell'altro capitano futuro che è De Rossi, che cammina, cioè se noi vogliamo avere un calcio un po' più, come direbbe il Capello, allenante, abbiamo bisogno di questi uomini un po' più dinamici, di grande movimento, non soltanto di temperamento. Lo abbiamo visto a livello internazionale. Io penso che la Roma si sia incartata dopo la sconfitta con il Bayern, perché alla vigilia di quella partita tutti erano sicuri nell'ambiente romanista, dal presidente del CONI fino all'ultimo dei tifosi, che la Roma avrebbe battuto il Bayern, comunque non sarebbe stata battuta. Basta riascoltarsi la conferenza stampa dello stesso Garcia di De Rossi, della vigilia. Bravissimo. Ora, quell'episodio, chiamiamolo episodio, ha avvelenato o comunque ha un po' sgonfiato l'ambiente. In più si sono aggiunte delle partite abbastanza singolari, perché la partita con il Sassuolo è stata una partita altro che il fallo di mano di De Jong, perché il fallo di mano di destro a centrocampo che poi ha prodotto il gol su mezzo fuorigioco, secondo qualcuno fuorigioco totale, per qualcun altro di Florenzi, anche lì quello è finito subito in cavalleria, questo di De Jong invece verrà trascinato. Sì. La Roma, ribadisco, è è un risultato degli errori del suo allenatore, che parla parecchio, parla molto, perché ha capito in che ambiente è. Sì, detto questo, i numeri dicono che, ripeto, un anno fa di questi tempi la Roma era a 5 punti della Juventus, oggi è a 3, e quindi aritmetica dice che è perfettamente... Bisogna sapere se la Juventus era più forte l'anno scorso o quest'anno. Ti leggo questa frase di Buffon mezz'oretta fa da Doha, dipendevamo da Conte, il tecnico precedente, quindi Antonio Conte è diventato il tecnico precedente per Buffon, aveva fatto un lavoro incredibile, ma senza la società e il senso di responsabilità dei giocatori non si sarebbero raggiunti certi risultati. È giusto affrancarsi da chi c'è stato prima, è giusto, totalmente corretto affrancarsi da chi c'è stato prima, un'altra Juventus, un altro allenatore, un'altra filosofia, ed è giusto prendere le distanze da chi c'è stato precedentemente. Trovo perfetta la lettura di Toni Damascelli sulla Roma, compreso Totti, compreso De Rossi, che in questo momento sono dei limiti, e Garcia lo sa perfettamente, ma da questo buco non può uscire. Noto però, Toni, anche che a Roma hanno imparato anche un'altra cosa, cioè il comitato di accoglienza dell'arbitro, no? Keita, De Rossi stesso e Totti, quando c'è qualcosa, fallo di mano di Armero, c'era il quintetto alto va dall'arbitro e dice aspetta. Il calcio, purtroppo, il calcio delle grandi squadre è fatto così. Mourinho con l'Inter faceva così, la Juventus ha sempre fatto così, poiché all'andata della partita tra Juventus e Roma i romanisti hanno accusato l'arbitro di essere sotto condizione sull'episodio del rigore, sulla punizione di Pirlo, il rigore di Maicon, di essere stato condizionato dalle proteste dei juventini, così come a Catania l'anno scorso, arbitro condizionato dalle proteste dei juventini. In questo caso le proteste ci sono state, è arrivata l'espulsione. Io ritengo che Rizzoli non sia un grande arbitro, è un arbitro che ha arbitrato la finale dei mondiali, è un arbitro che non ha il polso dei grandi arbitri internazionali che abbiamo avuto, potrei dire Agnolin. Sì, già a Firenze si era fatto ringhiare da Chiellini in faccia a 30 centimetri senza battere ciglio, cosa che un arbitro che ha fatto la finale del mondiale, secondo me, per personalità non deve permettere a nessuno. Poi ieri sera lo abbiamo visto in occasione dell'espulsione di Armero. Tony, ti faccio sentire un riassunto sonoro della settimana, però, che porta sempre a Conte, perché tu sei stato tra i primi a scrivere che Conte potrebbe ripensarci, fare un passo indietro. Oggi se ne parla in maniera più diffusa, allora mi piacerebbe anche aprire questo capitolo. E agghiacciante quello che dicono, e agghiacciante che è una capra respiratoria, pensi che il calcio possa essere rotondo, e agghiacciante che un Conte tecnico tattico non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. E agghiacciante, chapeau. Se poi i buoni propositi rimangono solo a parole, servono a poco. Io sono uno a cui piacciono i fatti, che sia Natale, che sia Capodanno, sia Pasqua, o sia un'altra festività. Meglio agire piuttosto che parlare, ecco. Spesso si parla tanto a vanvera, si promette, ma alla fine chi fa i fatti sono veramente in pochi. Per quanto riguarda lo stage, ci sono delle date FIFA che vanno rispettate, anche perché i giocatori non sono miei, i giocatori sono della Juventus, quindi questo è un confronto che dovrà essere fatto dalla fede del calcio e le società di calcio. Ci sono delle cose sulle quali mi trovo d'accordo, io capisco, è chiaro che è lui allenatore della nazionale e dal suo punto di vista avrebbe bisogno di più tempo, però questi purtroppo sono tutte le problematiche che trovano i CT, avere i giocatori per poco tempo, però su certe cose, tipo iniziare il campionato prima, così io sono totalmente d'accordo, e poi anche dargli una volta io non avrei nessun tipo di problema, ecco, perché poi so che comunque lavora bene, però è chiaro che queste sono problematiche molto serie, perché tutti i CT ce li hanno purtroppo. Sì, e questo è un riassunto breve del teatrino. Alla fine ha trovato Mancini come alleato, Conte, tutti gli altri gli hanno sbagliato. Gli interisti nazionali non ce n'è. No, ci sono Ranocchia e Osvaldo, tutti gli altri gli hanno smontato in 48 ore questa questione degli stage. Ma si guarda il dito e non si guarda la luna. Cioè, nessuno ha ancora capito che Conte non sta facendo quel discorso per se stesso. O la nazionale è una cosa seria che riguarda il movimento calcistico italiano, oppure non è importante, aspettiamo marzo come accadrà, Conte radunerà i giocatori alla vigilia della partita e si giocherà la partita. Sì, però Tony, fanno così tutti. No, non mi interessa, a parte che non è vero. Se vuoi ti porto due esempi che non sono così, ma non sono gli stage. Gli stage è un pretesto, se qualcuno non avesse ancora capito. Il problema è il tipo di allenamento delle nostre squadre. Se l'allenatore della nazionale ha fatto il giro di 19 club, fatta eccezione per uno, e già qui dovremmo parlare, dopo che per 4 volte l'appuntamento è stato respinto, anzi rinviato per essere più precisi, per 4 volte, un motivo c'è, a differenza di Prandelli o dello stesso signor Lippi. Un motivo c'è, lui è andato a parlare con gli allenatori per spiegare loro che l'intensità degli allenamenti nel nostro campionato è deficitaria rispetto ad altri campionati. Vogliamo lavorare meglio? Lui ha fatto un totale di questi raduni e da questo totale risulta che alcune squadre lavorano a un certo livello e altre, come ammettono gli stessi allenatori, uno su tutti, Vincenzo Montella l'ha detto, non lavorano con intensità. Lui è tornato da alcuni incontri dopo che aveva parlato addirittura non con gli allenatori ma anche con i calciatori convocati in nazionale, alla domanda come vi siete allenati in settimana, che tipo di allenamento, la risposta è stata ma stiamo bene. Ma cosa vuol dire stiamo bene? Allora va in palestra. Lo so, però, in palestra. Però Tony, tu hai perfettamente ragione, poi difficile anche mettere il dito all'interno della conduzione di una squadra. Lo stesso Conte fino a qualche mese fa non l'avrebbe mai accettato, giustamente. No, anche perché i risultati tra virgolette agonistici, non parliamo di risultati tecnici, i risultati agonistici sono indiscutibili. Sì, la Juve correva al doppio degli altri. Esatto, allora perché correva al doppio? O per doping o per altri motivi, perché l'intensità, basta parlare con i calciatori, io sono conoscente, oltre che amico, di 3 o 4 giocatori illustri, veterani, e tutti mi hanno detto, io non ho mai fatto allenamenti di questo tipo, ma sto bene in un altro senso, sono stremato, perché bisogna uscire dal lavoro stremati, loro chiamano lavoro, dall'allenamento stremati, e non per stare bene con i muscoli, come Balotelli e compagnia. Ora, gli stage sono, ribadisco, un pretesto. Il problema è un altro, è un problema politico. All'interno della federazione, all'interno della Lega, non c'è una comunanza di intenti per il lavoro del calcio italiano, che passa da Coverciano. Chi è il responsabile tecnico Coverciano? Voi lo sapete? Andiamo a vedere insieme come è composta la commissione tecnica, i consulenti. Vi metterete le mani nei capelli. Mi dici, se vogliamo cambiare il calcio italiano, se invece aspettiamo che la nazionale vinca gli europei o vinca i mondiali per qualche partita, allora aspettiamo pure. Ma non lo sapeva Conte, Antonio. Lo sapeva e posso dire di essere stato partecipe di questa scelta, se non sponsor di questa scelta, per motivi patriottici, chiamiamoli così, perché quando ti chiama la nazionale devi fare due conti, non soltanto economici, contabili, ci mancherebbe altro, anche perché se vuoi il numero uno lo devi pagare. Certamente, su questo non c'è dubbio. Ma dopodiché ti aspetti che la federazione e la Lega insieme facciano un discorso comune in vista degli impegni, non di marzo, di aprile, di maggio, dei prossimi 5 anni, dei prossimi 7 anni. Cosa praticamente impossibile in Italia. Praticamente impossibile. Ma perché? Perché siamo questi? Perché siamo questi? Tra 2 anni è in scadenza. Abbiamo la prima cosa che hanno fatto in federazione, cos'è stata? Quella di tagliare il direttore generale e di metterne uno nuovo scaricato da Malagò. Poi chi comanda? Da Vecchio insieme con Lotito. Poi la Lega da chi è rappresentata? Da Beretta, che un giorno dice una cosa e un giorno dice l'altra. Abbiamo la Supercoppa il 22 di dicembre, che fa saltare il calendario. Abbiamo il campionato italiano che parte sempre ultimo questa in Europa. Questa è la nostra fotografia, Tony. E purtroppo è quella che abbiamo ereditato, non che prima con la Federcalcio precedente a livello di programmazione andasse molto meglio. Tony, ti devo salutare che siamo in pubblicità. Okay. Ciao. Buon lavoro a tutti. Grazie Tony. Ci fermiamo. Io penso sinceramente che fare gli auguri di Buon Natale, o peggio ancora, prospero anno nuovo, felice anno nuovo e via dicendo, sia veramente una stronzata grottesca. Dai. Tutti convocati. Perché alla fine del primo tempo eravamo avanti, terzi in classifica, con un'opportunità incredibile anche per come si sta svolgendo la partita, e quindi abbiamo avuto invece un calo sicuramente di attenzione del quale dovremmo meditare molto, perché è stata un'opportunità sciupata per come era la gara e per come stavamo giocando. E questa invece è la delusione di Gasperini, che alla fine del primo tempo era terzo in classifica da solo e lanciato anche all'inseguimento di Juventus e Roma, se vogliamo esagerare, da capire, poi ha buttato via la partita. Abbiamo visto anche Mihajlovic, così come Ferrero in tribuna, prima il balletto e poi una certa delusione. Questa è la fotografia di questa domenica, in cui, ripetiamo, si sono fermate Sampdoria, Genoa e Fiorentina. Genoa andava a Natale terzo, Giovanni. Genoa andava a Natale terzo, invece terza potrebbe andare a Natale la Lazio, se questa sera sbancasse San Siro, terza da sola eventualmente a quota 29, oppure potrebbe rientrare in quel gioco per il terzo posto anche l'Inter di Mazzarri prima e Mancini poi. 800 24 00 24, l'intervento di Tony Damascelli sta facendo discutere su Antonio Conte e la spaccatura con la Juventus e non solo, e anche i giudizi sulla Roma di Garcia. Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro. Buona domenica a tutti. Alessandro, ti sentiamo malissimo, se puoi alzare la voce. Eccoci, Giovanni. Prego. Ciao, buona domenica a tutti e auguri a tutti per le prossime feste. Ci siamo sentiti anche di recente, io volevo esprimere ancora un giudizio sul duello Roma-Juve e sono contento che comunque a Roma continuino a parlare. Io sono un tifoso juventino, vedo che settimana scorsa Astori comunque aveva detto che poi ci avrebbero ripreso. Garcia, che continua a parlare anche quando fa le interviste sui giornali, sempre della partita di ottobre, sono passati due mesi, e invece io penso che si dovrebbe preoccupare un pochettino di più di come gioca la sua squadra rispetto all'anno scorso, perché giocava molto molto meglio l'anno scorso, sarà anche che non giocava in Champions e quindi le energie in questo finale di stagione sono meno, come per la Roma, come per la Juve. Sì, per quello dico che comunque, Alessandro, c'è spazio in realtà per la Roma per costruire una stagione, perché con in mezzo un impegno gravoso, con quel girone tra l'altro come quello della Champions, in realtà poi ha ragione Garcia quando dice siamo un paio di punti sotto la prestazione dell'anno scorso, nessuno in Europa si è migliorata facendo la Champions, quindi la lettura numerica di questi primi tre mesi di stagione della Roma è certamente positiva. È il momento però forse di parlare anche della lettura poi non numerica, tecnica, tattica, soprattutto ambientale. In quella c'è una differenza di mentalità notevole ancora rispetto alla Juve. Garcia continua a parlare della partita di ottobre perché tutte le cose che Alessandro dice le sa perfettamente. Cioè, non è che Garcia non abbia ben presente che la Roma in questo momento ha delle difficoltà, che la Champions League comunque ha succhiato energie, che Totti e De Rossi sono, come diceva Damascelli prima, molto condizionanti anche presso l'opinione pubblica. Non è che Garcia tutte queste cose non le sappia, semplicemente sta seguendo una ben precisa strategia mediatica, come hanno fatto altri, come ha fatto lo stesso Conte quando era allenatore della Juventus, come ha fatto per tutta la sua carriera il numero uno assoluto, che è Mourinho. Quindi metti pressione sugli avversari, metti pressione sugli arbitri che fischiano gli avversari, eccetera eccetera eccetera. È semplicemente una strategia mediatica molto difficile anche da sostenere e da reggere, che forse in questo momento sta mostrando la corda. Maurizio da Latina. Maurizio, buonasera dottor Genta, buonasera dottor Cavolo. Eccoci qua. Volevo innanzitutto auguri di Natale, buon Natale e un ottimo 2015 alla faccia di Mughini, ritengo che si debbano fare gli auguri. Poi volevo dire, quanto riguarda, sono tifoso del Milan e stavolta sono più soddisfatto della squadra perché la vedo più organizzata, finalmente una squadra compatta dove corrono tutti, una domanda: cosa è necessita al Milan secondo voi per poter, non dico primeggiare in Europa che è difficile, ma perlomeno in Italia? Secondo me, secondo me è difficile anche che possa primeggiare a breve termine in Italia, in Europa scordiamocelo. Io credo che con un paio di inserimenti intelligenti a gennaio forse quell'obiettivo del terzo posto possa non essere così un sogno come appariva ad inizio stagione, anche per demerito degli altri, a partire dal Napoli, e poi ne parleremo dopo le 18 quando arriva anche Pierluigi Pardo. Quale zona del campo? Tutte, ma non ce n'è una che si sa, secondo me. Beh, intanto è stato sciolto il dubbio di Torres, quarta panchina consecutiva, il Milan è questo, e questo è un Milan che funziona, però sì, lì però serve qualcosa. Mi devi spiegare, qualcuno mi deve spiegare, o Inzaghi dovrebbe spiegare e non lo farà, veramente Torres e Pazzini sono in condizioni così improponibili da non poter entrare in campo in una partita come quella di ieri, dove c'è Menez straordinario in questo momento, però che faceva di tutto, ripartiva. Sì, però il Milan gioca bene, prova, così, ha i suoi equilibri così, va bene, ma fa fatica già a integrare il Sharawi in campo, questo tipo di squadra. E il Sharawi, guarda che è un peso non da poco, perché è uno che gol non ne fa, quindi sulla gestione di El Sharawi avrei meno da dire, però è possibile che due giocatori che tutto sommato i gol li hanno sempre fatti, sto parlando soprattutto di Pazzini, poi Torres sono tanti anni che è così, è un discorso un po' diverso, ma è possibile che uno come Pazzini non trovi mai spazio in una squadra come il Milan, neanche come giocatore tattico? Ci sono, credo, logiche anche di mercato, di contratti che vanno in scadenza, di tutto questo dietro la scelta su Pazzini. Però ripeto, mi pare che Inzaghi abbia trovato un Milan che funziona, e finalmente da qualche settimana a questa parte ha anche l'autorizzazione a farlo giocare. Stefano da Grosseto, Stefano. Buonasera, grazie. Eccoci. Grazie. Senta, intervengo riguardo alle parole di Tony Damascelli, che concordo completamente con quello che ha detto sulla nazionale. La nazionale è lo specchio del calcio italiano, dove siamo tra gli ultimi in Europa in tutto. Riguardo all'inizio del campionato, abbiamo un clima che potrebbe tranquillamente far iniziare il campionato molto prima, oppure anche la gestione della Coppa Italia, almeno far giocare le grandi squadre all'inizio, sì, come si faceva una volta, anche per riempire gli stadi, un conto, sì, una squadra di Serie C contro una grande, sì, squadra. Su riempire gli stadi con la Coppa Italia io avrei più di qualche riserva. L'ultimo turno, quindi, 8 partite ne hanno fatte, sia 9-20.000, neanche se li paghi per entrare. Giocate ora con la temperatura fredda, un conto invece probabilmente d'estate, ed in più il fatto che si firma per tanto tempo. Questo per dire, per concludere, che in Italia ci si allena male, ci si allena molto male, siamo sempre di corsa, e questo poi si rispecchia nella nazionale, e Conte ha completamente ragione. Sì, non siamo gli unici che si allenano male, mi viene in mente ad esempio le tournée che fanno Barcellona e Real Madrid d'estate, di fatto allenandosi semplicemente giocando delle amichevoli. Saluto Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Perché anche lì non è che ci si alleni poi tantissimo, soprattutto d'estate. Beh, addirittura poi, diciamo, il Barcellona ha cambiato, infatti quest'anno Luis Enrique ha cancellato quasi tutti i programmi, diciamo, che servono per far cassa. Sì, il Real Madrid va in America e ci si allena giocando, questo è un po' Ancelotti, però per esempio non fa una piega. Il Barcellona esagerava gli hanno dato un po' un taglio, però più che altro esagerava a livello di chilometri, perché poi non è solo quello di allenarsi. Dai 30.000 poco in su. Esatto, fa 30.000 chilometri d'estate, magari non è il massimo, per cui sì, sul fatto di allenarsi poco, sì, io per esempio ne ho un po' parlato anche con Ancelotti questa mattina, sì, è un po' diverso, però lui dice che non è, secondo lui non è solo una questione, come si può dire, di intensità e di allenamento. Esatto, cioè c'è anche un discorso qualitativo ovviamente di giocatori, e dice perché poi comunque il campionato italiano a livello tattico è ancora all'avanguardia secondo lui. Il problema è anche con chi lo fai e con chi giochi, insomma. Secondo me torniamo un po' sempre lì, sì, alla qualità che ci manca, insieme all'intensità, insieme a tutto il resto. Phil, abbiamo il traffico, un po' meno di 30.000 chilometri, un minutino e torniamo. Sono Pavel Nedved, ho capito solo adesso cosa vuol dire lavorare per la Juve. Tutti sono sempre contro la Juve, ma io per fortuna sono intelligente, e non faccio polemiche. Auguri di buona festa solo alla Juve, porca miseria. Tutti convocati. Olè! Che buona pelota de Kroos! Otra vez! Tenía que ser él en la final de la Champions. Apareció Ramos y en la final del Mundial de Clubes aparece la cabeza de Camas, el de Camas, Sergio Ramos. No sé, increíble, sí, inolvidable. Va a ser un año inolvidable. Naturalmente estamos muy contentos de terminar este año con este título. Realmente fue un año fantástico, pero tenemos que seguir porque la temporada no termina aquí. Somos a la mitad de la temporada, pero vamos a trabajar para que sea un 2015 como el 2014. La temporada non termina a chi? A chi in Marrakech, dove c'è Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Beato lui, aggiungo. Però non male il 2014 di Carletto Ancelotti, Phil. Buon pomeriggio. Prima di tutto, sì, è grande il commento. La voce era di Antonio Muelas di Radio Nacional de España, che è stato premiato come uno dei tre, diciamo, 3 milioni di narrazioni. Per il mondiale, se vi capita, andate a sentire un premio di Globo, saluta la Spagna che esce dal mondiale tristemente dopo 6 giorni, ringraziando e piangendo, ringraziando tutti i giocatori e Del Bosque. Così. Beh, detto questo, sì, una grande. Guarda, il dato, ieri mi è toccata la prima domanda in conferenza stampa a Ciarotti, ho detto: ma tu lo sapevi che il Real Madrid in un anno solare non aveva mai vinto 4 trofei? Lui è rimasto sorpreso, questo dato anche a me mi ha colpito abbastanza. La chiave è chiederlo a Perez. È chiaro, però secondo me molto bene, rappresenta molto bene il lavoro, cioè lo straordinario. Cioè, la cosa bella di Ancelotti è che riesce ancora a essere straordinario in un club che lo è di suo, insomma, no? Perché Real Madrid ha fatto la storia del calcio, è arrivato Carlo e vuoi dire, non avevano mai vinto a Monaco dopo 11 partite e lui vince. Non avevano mai battuto il Liverpool e lui vince. Avevano vinto una volta su 23 in Germania, lui ci vince 2 volte. Non so, capito? È tutta una serie di cose. Non avevano mai fatto più di 15 vittorie di fila, lui ha 22. Cioè, il limite è il cielo, caro esatto, Filippo. Sky is the limit. Adesso non gli resta che fare triplete, no? Quadriplete. No, adesso gli resta per arrivare Tombola. Esatto, per arrivare al tombolone, se vuole vincere il tombolone, cioè fare i 19 titoli internazionali per esempio, deve vincere la Champions. Certificati, non è mai successo a nessuno. Certificati, perché ci sarebbero già i 19 della Lali che stiamo attendendo le verifiche di Galliani. No, quelli sono già verificati, io sono buoni quelli della Lali, però siccome voi siete così. Però la scritta club più titolato del mondo è ancora lì sulla carta intestata di via ex Turati, ora al Duro. Però capito, adesso per vincere il 19 deve fare la doppietta in Champions, che appunto da quando si chiama così non è mai riuscita a nessuno, e vediamo, però era molto contento, ti dico, questi argentini erano veramente dei pellegrini, visto la squadra del Papa, l'avevamo già detto, però oltre al divario tecnico, economico e tutto, Il vero problema è che il Madrid aveva fame, lo voleva questo mondialito, se ne è proprio andato a prendere. Questa è la grande cosa: riuscire a motivare, riuscire a far avere fame a gente che ha vinto tutto. Insomma, in questo momento è l'allenatore migliore che c'è in giro, sì, non italiano, intendo al mondo. Sì, è la squadra migliore, l'allenatore migliore, tanti dei giocatori migliori, perché voglio dire, ma Sergio Ramos, ragazzi, cioè questo ha fatto gol. 2 gol a Monaco, semifinale di Champions. Il gol nella finale, che vale più o meno il titolo, perché è il pareggio al 93. Gol nella semifinale al Mondialito, gol nella finale. Cioè, avete detto, questa cosa è bellissima. Ha gli stessi gol di Iniesta nel Barcellona, avendo giocato 100 partite in meno. Sì, e soprattutto facendo il difensore centrale e non il playmaker, il centrocampista. Cioè, Iniesta sta a 10 metri dall'area, gioca, ed ha un talento, diciamo, infinito. Ha fatto 52 gol come Ramos. Ha una garra inarrivabile, cioè è un giocatore, ha una garra inarrivabile. Può starti simpatico, può starti sulle palle se sei il suo avversario, però è una. Cioè, no, è uno su cui, se una partita conta, è uno che vuoi sempre. Sì, sì, sì, no, sempre il è una cosa, e lui è così, cioè voleva vincere pure questo mondialito, stava male perché il giorno prima era in dubbio, lui è venuto lì a dire no, dice io voglio così, giocare, così come qua. Credo sia stato male Ronaldo non poter mettere la sua figurina così come aveva fatto a Lisbona in maniera totalmente immeritata con il rigore all'ultimo secondo, esatto, pur di fare quell'esultanza che sarà la copertina sul pallone d'oro che Ronaldo vincerà, anche se si è rifiutato di stringere la mano a Platini perché ma Platini ha detto che deve vincere un tedesco. Attenzione, la cosa di Platini però lui aveva già dato la mano quella è un'immagine particolare, quando quindi lui è una montatura giornalistica, no, cioè, insomma è vero che lì lo ignora, però lui la mano gliel'aveva già data prima, quando Platini gli porta il premio, gli dà la mano e tutto, cioè loro si sono già salutati e quante volte gliela dà? Esatto, cioè, oggi i giornali di tutto il mondo scrivono che si è rifiutato di dare la mano, sì, a Platini. Non è così, non è, sì, lo so, no, no, l'ho visto, noi compresi, però in realtà lui la mano prima gliel'aveva data, non è che proprio non ha fatto un Maxi Lopez con i Cardi, insomma, mettiamola così. Sì, anche perché è bello questo parallelo, ecco. chissà cosa potreste pensare. Irina no. Risulta lì ancora, no? No, esatto, quindi no, esatto. Non c'è motivo. Gliela data prima e poi dice, come dire, appunto, ma che vuoi? Di nuovo, già te l'ho data una volta, diciamo basta, non gliela ridata, però una volta gliela data, quindi non è stato così. E comunque gli manca la figurina insieme a quella da Lisbona da appiccicare sul pallone d'oro, chissà. Lo chiamavano Elansia, no? Sì. Ieri l'ho rivisto di nuovo un po' ansioso, era lì, ci provava in tutti i modi. La voleva, quella foto lì la voleva, grazie Phil. No. Grazie a voi, ciao Filippo. No. Grazie Filippo Maria Ricci. Chi è? Fratelli e sorelle, buonasera. Questa sera il San Lorenzo necessita della mia benedizione, sì, per una vittoria storica. Allora. Preghiamo insieme, no, per diventare campione. No. Santità, mondo. Ha giocato ieri sera, ha vinto il Real Madrid. No, voi sì. Siete dei burloni, no. Tutti convocati. Questa sera vorrei cantare in Santa Marta, siamo noi. No, siamo guardi noi. Che la finale c'è stata ieri, ne parlavamo prima col corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ha vinto fare... Real Madrid. No, a lei, Capuano, dovrei fare un esorcismo. Il demonio no. Si è impossessato di lei. Lei dice cose non vere. No, ha e giocato ieri, noi. Ha vinto forse. Il Real Madrid. Ma non è possibile. Ha rimosso tutto. Ma no. Possiamo chiederle se davvero fa le Olimpiadi in Vaticano? Sì, ho proposto di fare una parte specifica delle Olimpiadi direttamente in Vaticano. Cioè? Per esempio, tutti gli incontri de pugilato si svolgerebbero in Santa Marta e facciamo partecipare tutti i nostri cardinali. Si darebbero botte de orbi, ma soprattutto sì, de orbi e d'orbi. Poi, oltre al pugilato? Sì, de sicuro facciamo tiro con l'arco e lancio del peso, del martello, del disco e anche del giavellotto, e tutti con un unico bersaglio. Chi? La mansarda di Tarcisio Bertone, medaglia d'oro a chi becca con precisione l'attico. Una sola cosa la faremo dentro alla Basilica di San Pietro, e cioè una disciplina della scherma. La scherma in chiesa, sì. Sì, sì. Fioretto. Andro Mercu 800240024 arriva per Luigi Pardo, a dopo. Quote e pronostici. Inter-Lazio, il posticipo della 16ª giornata di Serie A, si gioca a San Siro con calcio d'inizio alle ore 20:45. Vediamo assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dell'Inter che è favorita, è quotata 2:20. L'X come il 2 sono quotati 3:30. Gol per questa partita quotato 1:75. No gol quotato 1:95. In campo anche questa sera la Liga, perché alle 19 c'è Elche Malaga, l'1, il successo dei padroni di casa è quotato 2,90, X a 3,10, 2 invece con il successo del Malaga, quotato 2,50, alle 21 a Bilbao c'è la sfida tra l'Athletic Bilbao e l'Atletico di Madrid, l'1, il successo del Bilbao è quotato 3,40, X a 3,25, 2 invece con il successo di Conchoneros, quotato 2,15, chiudiamo con il posticipo di Ligue 1, perché alle 21 c'è Bordeaux, Olympique Lione, l'1, il successo del Bordeaux è quotato 2,55, X a 3,20, 2 invece, quotato 2,80. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. convocati. Teniamo tutti, tengo io, tengo la società, tengo i giocatori, i tifosi. Giocheremo contro una squadra del Napoli, una squadra che è molto difficile da affrontare in una singola partita perché ha grandi qualità in fase offensiva. I risultati in campionato non sono il vero valore della squadra. È una squadra che ha molta tecnica e giocatori soprattutto che a livello singolo possono risolvere le partite. Sarà a questo punto la partita più importante del 2014, perché dopo iniziamo a giocare un altro anno. Sempre la prossima partita per me è la più importante, questa che è la Supercoppa contro la Juve, è chiaramente una partita fondamentale per tutti noi. Se avete notizie di Pierluigi Pardo siamo qui, 800 24 00 24. Chiediamo anche agli amici del traffico, ai che tempi ne sanno, giusti per l'inserimento, Giovanni, i tempi adesso arriva, vedrai che arriva. 800 24 00 24, aspettando, eccovi, Allegri e Benitez. Oh, c'è anche un De Laurentiis tonico da Doha. Ha detto: molti giocatori del Napoli si sono seduti psicologicamente perché hanno capito che non possono lottare per lo scudetto. Boh. Lapide sulla stagione del Napoli. Bah, non lo so, non possono lottare per lo scudetto. Non hanno. Cioè, il Napoli non è mai stato in corsa per lo scudetto realisticamente. Secondo me piuttosto c'è qualcosa da rivedere nei rapporti tra Benitez e buona parte del suo gruppo. Cioè, il fatto che non si prenda con Hamsik mi sembra lampante, ma lo si vede sul campo. Perché Hamsik è costretto a giocare in una posizione che non gradisce, questo fin dall'inizio dell'avvento di Benitez. Io mi domando, e ho domandato più volte in questi giorni, se Benitez potrebbe fermarsi a Doha. Da quelle parti si è fermato un'altra volta, eh? E tu te lo ricordi con... Sì, diciamo con la verità, una volta tagliato il panettone, sì. Fatto il brindisi, arriviamo anche a Capodanno, poi entro un paio di settimane, massimo fine gennaio, il Napoli dovrà aver chiaro che cosa c'è nel futuro, perché non si può andare avanti con un allenatore che non si sa se rinnova, che dice che ha altre offerte ma per il momento ha detto di no, che va a Liverpool e in Inghilterra scrivono, e non solo i tabloid, che c'è qualcosa di più di una semplice simpatia. C'è un progetto da capire a che punto è. De Laurentiis ha detto anche: non possiamo comprare un giocatore da 10 milioni di euro tutti gli anni. Ha detto: il club agli sceicchi lo venderanno forse i miei figli, io non mollo. Certo è che questa Supercoppa, poi capiremo anche che cosa vale davvero, è vale un bivio per il Napoli. Certamente vale molto di più per il Napoli che non per la Juventus. La Juventus è in altre faccende più importanti affaccendata, mentre per il Napoli, che sta giocando una pessima stagione secondo me, partita male, malissimo con i preliminari di Champions League, ha fatto il suo in Europa League, e credo che questo debba essere realisticamente l'obiettivo cui il Napoli deve puntare, cioè giocare nel modo massimale l'Europa League. È chiaro che se non arriva a terzo è un fallimento in campionato, perché è il terzo organico della nostra Serie A, perché un attacco così gli altri non ce l'hanno, eccetera eccetera eccetera. Quindi finora stagione totalmente deficitaria quella del Napoli. Pierluigi Pardo entra in questo momento. Tempi di, come ti ho detto, tempi di inserimenti di Pardo sono perfetti. Non chiamate più l'800240024 per dirci dov'è Pierluigi Pardo, come stai? Se lo avete visto. Bene. Perché Pierluigi Pardo sta qui. Stavo mentre parcheggiavo. Sì, facevamo ironia. Allora, cominciamo mentre si prepara. Roberto da Latina, Roberto. Roberto? Pronto? Eccoci. Salve, buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione. Volevo solo intervenire a proposito della Roma e fare una velata polemica all'allenatore, se voi siete d'accordo, ma mi chiedo, non avendo un pacchetto di attaccanti simile a quelli per esempio che può avere il Napoli, ma il fatto di non far giocare Destro come lo sta facendo ultimamente, non avrebbe dovuto a questo punto l'allenatore provvedere nella campagna acquisti a definire meglio la alla sua cessione prima, perché a questo punto così psicologicamente il giocatore, io penso che sfido chiunque, io ho giocato a pallone, so cosa vuol dire, cioè se non sei, non hai la fiducia di chi ti circonda, se hai, non hai potenzialità non eccesse, forse come non le avrà destro, ancora di meno emergono. Quindi in questo punto Garcia si trova un po' incartato, cioè voglio dire, lui penso che qualche responsabilità l'abbia. Non so sì, voi magari far giocare Ljajić ieri, giocatore più in forma della Roma, non sarebbe stata una cattiva idea, no, ma, visto anche com'è andata. Sì, sicuramente, però insomma... allora sul discorso di destro, sicuramente quando un giocatore non sboccia definitivamente, premesso che destro ha ancora tempo e ancora secondo me ha tutte le possibilità per poter diventare un grande giocatore, è chiaro che le responsabilità sono in larga misura sue, e poi in compartecipazione gli allenatori sicuramente sono condividono meriti e demeriti. Chi è il capocannoniere della Roma di Garcia? Sì, appunto, è Gervinho. Lo so. È Gervinho quando trova destro. Il pallone, no, è destro in questo momento, però evidentemente destro è un giocatore che non è al centro dei progetti di Garcia. Certo, detto questo, poi sai, il quoziente gol, il quoziente minuti per gol, poi fa degli strani scherzi, perché per esempio ha dei numeri impressionanti Zapata, allora alla luce di questo dovresti mettere Zapata al posto di Higuain, e ovviamente non è così, no, perché poi ci sono dei valori assoluti. Nel caso di destro sicuramente è un giocatore che segna tanto e che Garcia sembra abbia confinato per le partite con le squadre piccole o medio piccole, e sicuramente poi insomma ultimamente se ne è giocata male una di queste partite, che era quella col Sassuolo, poi però per il resto insomma direi che il giocatore per me è un buon giocatore, può diventare un ottimo giocatore, deve forse crescere un po' come personalità in campo. Sì, come tutta la Roma del resto, e lo ha dimostrato anche ieri sera, lo aveva già fatto vedere col Sassuolo, ripeto, sono passati 77 giorni da Rocchi e dallo Juventus Stadium, se la Roma avesse vinto con Sassuolo e Milan le ultime due partite in casa, Rocchi o non Rocchi sarebbe in testa alla classifica. Carissimo Rudy Garcia, sarebbe anche ora di cambiare disco. 800 24 00 24, Claudio da Brescia. Claudio. Sì, pronto? Eccoci. Buonasera. Prego. Complimenti anche da parte mia per la trasmissione. Comunque volevo andare indietro un attimo di un passo, quando parlavate del anche nostro due. Calcio che è deficitario ormai, no? Io un po' faccio una considerazione che nessuno fa di tante trasmissioni sportive che seguo. Noi abbiamo il problema, perché non abbiamo dei grandi giocatori più come una volta? Perché paghiamo una marea di tasse sui trasferimenti, sui loro stipendi, tutto quanto, che rispetto a Spagna e altre nazioni noi paghiamo 2-3 volte di più. È lo stesso discorso delle nostre compagnie. Sono anche leggende metropolitane, dell'energia, pagano 3 volte più, 4 volte più l'assicurazione sull'auto, tutto più. La lei Beckham è stata cancellata da tempo, sì, sì. Oramai non fa più, non ha più effetti. Ma sicuramente la Spagna ha avuto un momento nel quale sì. per in il tipo di tassazione è stata agevolata, così come la famosa tassa del 75% per i super ricchi di Hollande poteva creare, forse che andrà creato, a essere cancellata. Sì, esatto. Poteva avere invece al contrario delle implicazioni molto negative per il mercato francese. Però insomma, detto questo, a livello di sistema è chiaro che se pagassimo meno, insomma, ci sono varie teorie macroeconomiche che riguardano più il signor Barisoni su come rimettere a posto i conti dell'Italia, e sicuramente insomma forse c'è chi pensa che con meno tasse insomma evidentemente ci sarebbe uno sviluppo per l'economia, ma evidentemente lo Stato non se lo può permettere. È un discorso più grande di noi. Sul calcio non mi sembra che abbia poi una che sia così pesante come zavorra. Poi sicuramente è chiaro che insomma, se le aziende italiane andassero meglio, spenderebbero più soldi per gli sponsor, spenderebbero più soldi per i club. Siamo un paradiso fiscale. No, questo senz'altro. Però siamo assolutamente in media, siamo in media. Almeno per il calcio, cioè, siamo assolutamente non in abbiamo media. Una zavorra ad hoc per il mondo del calcio, oppure per la tassazione dei ricchi, che fa sì che si soffra in maniera particolare. Siamo in linea con gli altri. Spagna, della legge Beckham esclusa. Poi vorrei che domani mattina il governo facesse la legge Beckham in Italia, così da dopodomani stiamo qui tutti a discutere del fatto che i calciatori privilegiati pagano la metà delle tasse. Beh, e andiamo avanti fino a quest'estate. Ho sentito Berlusconi ultimamente che ha riparato della Flax, Flax, no? Si chiama così? Flat, insomma, quella flat tax. La flat tax, cioè praticamente aliquota uguale per tutti indipendentemente dal reddito, è chiaramente una cosa percepita abbastanza di destra nel senso tradizionale, nel senso che finisce per aiutare inevitabilmente chi ha più soldi, visto che l'aliquota è la stessa se guardi un euro 5 miliardi, questa potrebbe, diciamo, il calcio italiano verrebbe aiutato da questa. Vabbè, parliamo, no, insomma, di pallone, ragazzi, Ibrahimovic ci verrebbe, no, prima facciamo il traffico, però Ibra verrebbe, ecco, la flat tax, traffico. Chiaro. A prescindere che sono Serse Cosmi, volevo assolutamente fare orgogliosi auguri a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e ai giocatori di tutti i convocati weekend. Buona Pasqua! Tutti convocati. 800 24 00 24. Oh, noi domenica ci siamo ancora, un'oretta, formato ridotto, ma non vi lasciamo soli neanche domenica 28 dicembre. Se ci volete dire anche come trascorrerete le feste di Natale, noi siamo qui in attesa anche di vedere domani una Supercoppa che, dicevamo prima con Carlo, vale soprattutto per il Napoli, vale soprattutto per Benitez, vale per cercare di capire dove va il Napoli a quel bivio che poi nel 2015 porterà ad esempio al rinnovo o meno di Benitez, a un nuovo progetto o in parte allo smantellamento di questo. Domani partita importante soprattutto per il Napoli, Pier. Sì, secondo me è importante per tutte e due, perché appunto le partite in un anno nelle quali c'è in palio una coppa, dove se vinci ti porti a casa un trofeo e se perdi torni a casa deluso, non sono molte, quindi io penso sia importante anche per la Juve, sicuramente per il Napoli, vista la classifica e visto ciò che la stagione fin qui ha offerto a tutte e due le squadre, insomma il Napoli sicuramente può avere più bisogno di questa vittoria, perché potrebbe dare un morale diverso a una stagione fin qui non esattamente in linea con le aspirazioni. La sensazione è comunque che questa storia sia finita o sia agli sgocci, dai, Piero. Quella con Benitez, dici? Che questo progetto sia esaurito, cioè che non ci sia più grande feeling tra le parti. Beh, però insomma, un anno e tre mesi, io non lo so, io penso che sicuramente non si debba stare nel limbo, ecco, su questo, e qui c'è un limbo molto pericoloso, perché o a Benitez tu gli dai la fiducia di un rinnovo, o quantomeno di una legittimazione molto forte da parte della società, e quindi gli dai le condizioni e il peso politico all'interno dello spogliatoio per poter lavorare in un certo modo, oppure se non ci credi a quel punto devi fare un'altra scelta. Sempre, insomma, che non sia lui in questo momento a fare riflessioni diverse. Molto banalmente, ma ovviamente è un ragionamento che abbiamo fatto in tanti ed è puro fantamercato, diciamo che la posizione di Brendan Rodgers a Liverpool non è salda come poteva essere pochi mesi fa, tanto per fare un nome, no? Fra l'altro Liverpool sta giocando con l'Arsenal. Sì, sta pareggiando 1-1, era andato in vantaggio con Gerrard, yeah. E poi Gerrard is better than Frank Lampard. Gerrard. Vabbè. Sì, poi De Laurentiis ci ha messo il carico da 90 a Doha, una mezz'oretta fa, molti giocatori si sono seduti dal punto di vista psicologico, visto che non possono lottare per lo scudetto, segno di un'evidente insoddisfazione. Ha detto anche: non possiamo comprare un giocatore da 10 milioni tutti gli anni. Io non so se questo tipo di progetto possa poi interessare davvero Benitez, o se le sirene da Liverpool, dalla Premier, dalla Spagna, se ne leggono di tante in questi mesi, poi possano in qualche modo interessarlo di più. Beh, sì, insomma, sicuramente, perché poi l'anno scorso il Napoli ha vissuto chiaramente della monetizzazione della partenza di Cavani, quindi della possibilità di prendere un grandissimo giocatore come Higuain, e devo dire che è stato anche bravo a trovarne altri, perché che Callejon fosse così forte non era assolutamente scontato. Sì. Mertens, giocatore che piace a matti, Albiol, brutta stagione però per Mertens. Sì. Voglio dire, Albiol forse è l'unico che secondo me è stato un po' pagato, forse un po' troppo, insomma 12 milioni forse una valutazione un po' esagerata, però complessivamente insomma c'era un mercato e c'era da potersi divertire. Quest'estate secondo me De Laurentiis non ha fatto quello che ci si aspettava, quello che i tifosi del Napoli, larga parte dei tifosi del Napoli si aspettavano, cioè un grande investimento a prescindere dal preliminare della Champions League. Ha aspettato il preliminare che è andato, come sappiamo, malissimo. Il Napoli sarà anche sfigato, diciamocelo apertamente, Athletic Bilbao era probabilmente la squadra peggiore da affrontare, l'alternativa era il Lille, ma le altre tre erano sicuramente molto più semplici. E quindi poi chiaramente qualcosa si è rotto, insomma, ma la strada secondo me è ancora non è detto. Certo, Benitez per la sua storia è uno che le offerte ce l'ha. Non è detto, poi leggi De Laurentiis che dice: Benitez, se andrà via ce ne faremo una ragione, sto studiando un progetto per trovare altri 150 milioni di fatturato. Fatemi salutare Nicola Moruso, ciao Nicola. Ciao, buonasera. Ciao, Nick. Va via Benitez? No, no. Che idea ma ti sei fatto? Di sì, sì, sono convinto che a fine anno andrà via, si è chiuso tra virgolette un ciclo per tanti motivi. Insomma, io penso prima di tutto perché Benitez sperava di poter lottare con il suo Napoli per altri obiettivi. Quest'estate ci sono stati degli screzi, ci sono stati comunque anche delle prese di posizione da parte dello stesso Benitez che hanno un po', sono andati un po' a rompere quelli che erano gli equilibri anche con De Laurentiis, quindi credo che a fine anno cambierà sicuramente, faranno insomma altre esperienze, ed è un peccato perché secondo me è un attore molto valido, poi con la sua esperienza comunque ha portato qualcosa di nuovo nel Napoli. Sì, sì, sembra di rivedere scene già viste negli ultimi mesi con Mazzarri, cioè il copione mi pare abbastanza simile, non so se però condividete. attenzione perché Mazzarri questo copione con De Laurentiis ce l'ha sempre avuto anche negli anni nei quali poi è rimasto, quindi che ci sia. È molto più aziendalista Mazzarri, Benitez è uno che ti chiede i soldi, ti chiede i giocatori, sì sì, ah. Però insomma li ha ottenuti i giocatori che chiedevano, non lo so, quindi poi sai, un conto è l'aziendalismo nel senso della richiesta, bisogna essere bravi a farseli comprare i giocatori, non quest'anno, ma ripeto, io penso che De Laurentiis abbia fatto cose importanti in questi anni e credo che se non vogliamo avere una visione molto stretta, molto piccola, dobbiamo riconoscere questa cosa. De Laurentiis ha portato il Napoli in una posizione dove non c'era da tantissimi anni, ai tempi di Maradona. Credo che quest'estate abbia sottovalutato il preliminare, cioè io penso che potesse fare degli investimenti, poi magari non passava il turno nemmeno con un paio di grandi acquisti prima, abbia fatto quello che in Italia spesso si fa, addirittura ci sono società come l'Udinese che legittimamente hanno venduto i giocatori proprio nell'anno del preliminare Champions League, penso ad Alexis Sanchez. In Italia non ci sono le risorse per poter affrontare un preliminare così, il Torino è andato in Europa League e ha venduto Cerce Immobile. Sì, hai l'impressione Nicola che la delusione di Napoli sia soprattutto verso De Laurentiis più che verso Benitez? Intanto Arsenal 2-1 a Liverpool, prego. Ma io sono convinto che assolutamente in Italia fino a un certo punto si può crescere, poi se non si cambiano un po' quelli che sono ma tutto il format, il calcio italiano andrebbe valorizzato, andrebbe riformato, costruito gli stadi, cioè, sono i soliti discorsi, le squadre italiane possono crescere fino a un certo punto, poi in Europa diventano non competitive, la Juventus ci sta provando dopo aver comunque fatto una politica diversa rispetto a tutte le squadre italiane e sta ottenendo qualche risultato, ma molto lentamente, perché comunque sia potrà arrivare, io mi auguro, insomma, tra le prime 8 in Europa, però si fa grande fatica, le altre squadre sono lontane a chilometri, anni luce rispetto alla Juve, se andiamo a parlare insomma del Napoli, di altre squadre che sono lì, tolto al nome, insomma, che lottano per il terzo posto, quindi andrebbe cambiato tutto il sistema e non credo ci sia la voglia e la forza di nel volerlo fare, perché altrimenti non si può competere con squadre che con delle nazioni che da anni hanno cercato, hanno investito nel calcio, vediamo la stessa Germania dopo un mondiale disastrato aveva comunque investito tanto sui giovani, sui settori giovanili, insomma in Italia è un discorso che ogni anno siamo a parlare la stessa cosa, però alla fine non cambia mai nulla. Sì, parlavamo prima anche delle difficoltà di Conte, della sua richiesta di allenare di più, meglio, con maggiore intensità, i nazionali ma non solo, in generale il calcio italiano. Sì, però ecco, è normale ci sia anche certe difficoltà da parte dei club nel prestare tra virgolette per i giocatori nazionali in questi stage, perché alla fine insomma vengono meno quelle che sono le necessità dei club e degli allenatori, quindi insomma è un discorso molto difficile e complicato. Io credo che ci sia bisogno più di investire in settori giovanili, nella metodologia, negli istruttori, è quello che manca in Italia, o meglio va a piccolissimi passi rispetto alle altre, e poi viene tutto il resto, perché una volta che formi i giocatori, una volta che hai talenti, diventa tutto più facile, è più facile anche essere competitivi sul mercato europeo e tutto il resto. Nick, mi dici se è più forte questa Juve o quella di Conte? Domanda che abbiamo lanciato la prima ora con Tony Damascelli, che lui dice: ma siete sicuri che questa Juventus sia più forte di quella dell'anno scorso? Allora, io la differenza che trovo tra i giocatori è proprio quello di atteggiamento, un atteggiamento quello di Antonio Conte che dà alle proprie squadre di grande aggressività, e alla lunga sono convinto che paghi, perché se non hai quello perdi qualcosa, lasci qualcosa per stare da qualche punto. Le squadre di Antonio Conte mi sembrava molto più cattiva, quella di Allegri va a una velocità decisamente inferiore, poi dopo in questo momento i risultati gli stanno dando ragione, non ancora, perché probabilmente andrà avanti fino alla fine della stagione, assolutamente. Però l'impressione a metà è questa. Fare un bilancio, credo alla fine si possa fare un bilancio, poi ripeto, io sono più per quelle squadre che hanno un atteggiamento aggressivo, ma di grande intensità, così come succede in Europa, perché ne avete le partite in Europa, vediamo anche Liverpool, Arsenal che stiamo guardando, mi sembra che vadano al doppio rispetto al campionato italiano. Però, io guardo la classifica, vedo la Juve ha fatto 39 punti ad oggi, si è qualificata per la seconda fase della Champions League. Mi sembra, chiaramente il termine di paragone è talmente complicato, perché insomma Conte ha fatto cose eccezionali almeno in campionato nei 3 anni in cui ha allenato, che è praticamente impossibile per Allegri riuscire a migliorare quei numeri. Però insomma io credo, mi voglio ricordare dove stavamo a luglio quando è stato preso Allegri, in preda all'emotività del momento, c'erano i tifosi della Juve che pensavano, che temevano che si fosse esaurito un ciclo. Oggi credo che lo possiamo dire, ormai al tramonto di questo 2014, il ciclo non si è esaurito. Poi il campionato lo può vincere la Juve, lo può vincere la Roma, però 39 punti arrivati a Natale, la qualificazione agli ottavi di Champions League, mi sembra che Allegri sia, cioè, se dobbiamo valutare quello che sta facendo Allegri, io penso che il voto debba essere necessariamente molto positivo. Sicuramente, però ripeto, i conti si faranno alla fine, perché dovesse vincere il campionato, dovesse arrivare più là in Champions League, sicuramente insomma avrà ragione anche Allegri. In ambito nazionale è veramente difficile, nel campionato italiano, valutare le squadre, perché sinceramente non c'è competizione. Cioè, c'è poca roba al di là di Juventus. È poco allenante, come disse una volta Capello, facendo arrabbiare. Mi dici come finisce domani? Prego. Presentare le vere potenzialità della propria squadra. L'unico campo è quello europeo, perché in Italia sinceramente non ci sono paragoni. La Roma è la squadra che più si avvicina. Sì, per tasso tecnico, per comunque intensità. Quindi domani Juve-Napoli uno fisso, eh? Juve-Napoli uno fisso domani. Ma sulla carta sì, però essendo una partita, insomma, 90 minuti può succedere di tutto. Napoli è imprevedibile. Napoli è imprevedibile. Posso anche pensare che possa perdere altri 10 punti dalla Juve da qui fino alla fine della stagione, perché comunque le sue disattenzioni ce l'ha e non le ha corrette. Ma sulla partita secca il Napoli per me rimane un avversario che vale Juve e Roma. Lo dicono i numeri, lo dice questa stagione, lo dice la precedente. Insomma, il Napoli l'anno scorso ha eliminato la Roma in Coppa Italia, quest'anno l'ha battuta in campionato, ha perso male a Torino all'andata, ha vinto al ritorno contro i bianconeri. Insomma, è una squadra che nelle partite secche, infatti non a caso è una squadra che comunque ha alzato una coppa. Sai chi non lo dice? De Laurentiis. Poi dopo la pubblicità ve lo leggo, perché sta andando a valanga su tutto, a partire da Benitez. Ciao Nicola. Grazie Nick, ciao Nick. Grazie a Nicola Moruso. Torniamo con le parole di De Laurentiis. Ascoltandovi rimpiango il mio corniciaio, che è la persona più intelligente conosciuta in vita mia. Tutti convocati. 800 24 00 24. Adesso vi leggo le parole di Aurelio De Laurentiis, non semplici da decodificare, dovremo capire bene che cosa significa quando dice, ad esempio: abbiamo deciso di cambiare, ora dobbiamo avere pazienza. Di certo non posso permettermi di avere due centrocampisti con ingaggio milionario. Se ricordate, Benitez aveva detto: un conto è avere in panchina uno che guadagna 3 milioni e un conto averne uno che guadagna un milioncino. Questa politica non rientra nel budget del Napoli, Benitez lo deve capire. Se avrà la pazienza di sposare questo progetto sarò onorato, perché lo stimo come uomo, cultura e professionalità. altrimenti, carissimo Pier, ce ne faremo una ragione e guarderemo oltre. Sì, c'è da interpretare, no? C'è poco da interpretare. No, mi viene da pensare che Benitez secondo me non andrà più nei paesi del Medio Oriente, perché veramente vicino Oriente, perché tutte le volte vai in Arabia, no, sappiamo come è finita nel 2010, dove ha vinto un mondiale per club, non va dimenticato. Ma e poi vince pure domani. Sì, anch'io penso che il Napoli la favorita teorica è la Juve, ma anch'io ho sensazioni di una grande partita del Napoli, vedremo insomma, ovviamente, però sì, giocando sul pronostico ti dico anch'io Napoli, e no, sicuramente insomma sono affermazioni forti, ma in realtà da quello che ho capito sta facendo uno show, sta parlando di tutto, ha confermato l'arrivo di Gabbiadini, ha detto che il Napoli lo venderà agli sceicchi soltanto dopo morto, e, insomma, diciamo che sta facendo uno show, ci deve essere un bel clima, ne sentiamo una mancanza peraltro, però aspettiamo domani la risposta di Benitez, perché in quel famoso precedente lui disse: mi avevano promesso 5 giocatori, non sono arrivati, sostanzialmente si autolicenziò. Sì, però io quello che voglio dirti è che ci sono presidenti dal punto di vista della comunicazione che sono, diciamo, un po' più stitici, e altri che fanno lo show. De Laurentiis secondo me rientra nella categoria di Ferrero, non solo perché sono due presidenti cinematografici, ma insomma spesso il presidente si lascia andare, no? Delle dichiarazioni molto colorite quando ci sono i giornalisti, cioè gli piace, al gusto della battuta, al senso della battuta, quindi secondo me bisogna andarci un po' più piano, cioè se questa cosa qui l'avesse detto un presidente che non parla mai, allora sarebbe una specie di un peso diverso. Sì, sì, però ripeto, poi aspettiamo domani definitiva. Dopo la partita la risposta di Benitez, che non è uno che le manda, sì, le però, manda insomma, a dire, ha anche detto che è onorato di avere Benitez al Napoli, ha anche detto che onorato se accetti, sì, che il Napoli sia un progetto che fondamentalmente sta ripartendo e deve ripartire, tutto da valutare se Benitez accetta questo tipo di ragionamento. Tutto da valutare secondo me anche se i napoletani accettano l'altro pezzo del ragionamento, cioè quello dell'azionariato popolare, ma in cambio non avranno azioni ma servizi e benefit. Napoli che in questo momento è stato abbandonato dai suoi tifosi, lo testimoniano anche i 20.000 visti l'altra sera per Napoli-Parma, che erano poco meno di quelli visti per Napoli-Roma, in una stagione in cui il San Paolo è più vuoto che pieno. Incomprensibilmente peraltro. Se non capendo che cosa c'è dietro questa distanza tra De Laurentiis e i tifosi. Non so come sarà questa sera invece San Siro per Inter-Lazio. Io penso questo, che il campionato è ancora molto lungo. L'Inter è partito per arrivare in Champions League, quindi questo è l'obiettivo inizio stagione, gli obiettivi si vanno a vedere, a verificare alla fine della stagione. Come ho detto nell'altra conferenza stampa, io penso che noi avremo la possibilità di giocarci il terzo posto, di questo sono sicuro, quindi dipenderà molto da noi e non possiamo una settimana guardarlo. Io penso che in questo momento non sia importante guardare la classifica. In questo momento è importante cercare di migliorare, giocare bene e fare dei punti. Poi tra 2-3 mesi, quando ci sarà il momento importante, vedere dove siamo. Io penso che ci saremo. È il nostro obiettivo. Ci piacerebbe festeggiare questo Natale con grande serenità, in famiglia, al terzo posto. Quindi è chiaro che l'obiettivo per la partita di domani sono i 3 punti. L'obiettivo per la partita di domani è cercare di imporre il nostro gioco, di dimostrare di volere più dei nostri avversari il risultato pieno e di avere la capacità di mettere in mostra le nostre qualità, quindi l'obiettivo è quello. E questi erano Mancini e Pioli. Chissà come sarà questa sera San Siro, altro stadio decisamente vuoto in queste prime settimane di stagione. Saluto Beppe Bergomi, ciao zio. Ciao buonasera a tutti. Come te lo aspetti stasera San Siro? Ma io abito in zona e c'è fermento, quindi mi aspetto un po' di gente in più rispetto alle ultime uscite, insomma, che l'Inter ha fatto in casa. A parte il derby, mi viene in mente Verona, Sampdoria, la stessa partita con l'Udinese, c'era poca gente. Io penso che questa sera potremo vedere un San Siro, diciamo così, con una buona affluenza di pubblico. Sì. Poi c'è Pardo che fa la telecronaca, quindi una certa clac sicuramente. Sì, parenti, amici. Ma tu vieni allo stadio? La fai tu, zio? La faccio io, sì. Allora ci vediamo, ci incrociamo. Quindi già siete in due, ne mancano 49.998 per arrivare ai 50.000 di Bolingbroke. Però insomma, dai, sono passi avanti. Devo dire che fra l'altro anche gli intrecci del pomeriggio la rendono una partita eccezionale, secondo me, perché la Lazio da un lato ha la possibilità di andare solo al terzo posto e secondo me per la continuità di rendimento che ha avuto forse lo merita anche, perché comunque delle squadre inseguitrici mi sembra quella più continua, forse non è la più forte ma certamente la più continua, e per l'Inter insomma pochi giorni fa, pur essendo nel lato destro della classifica, ha la possibilità vincendo oggi di avvicinarsi, di riportarsi a meno 4 dalla zona Champions, quindi veramente uno spareggione. Zio? No, sono d'accordo, io la penso come Mancini, nel senso anche quando aveva 17 punti prima della partita con il Chievo, ma perché mancano troppe partite e il gruppo è molto ristretto. Io ho sempre pensato che se il Napoli faceva il Napoli è la terza forza del campionato. D'accordissimo. Ma ha perso un giocatore che era fondamentale e viene poco sottolineato, che è Insigne, che nelle ultime partite, se voi andate a rivedere le partite con la Fiorentina, anche quelle prime, era l'uomo tattico, perché mentalmente si era messo in testa quello che ha detto Mancini dei propri giocatori, di saper lavorare anche in fase difensiva, ed era utilissimo da questo punto di vista. Senza di lui Mertens non lo può fare tutto questo lavoro, perché non ha le stesse caratteristiche. Napoli ha perso qualcosa, però se dovesse prendere Gabbiadini a gennaio, l'ha preso ufficializzato, annunciato oggi da De Laurentiis. Secondo me, zio, il Napoli ne ha perso un altro giocatore già da un bel po' di tempo, si chiama Marek Hamsik. Sì, ma sai che ne ha perso anche un altro, che è Higuaín, perché Higuaín sì, dopo la partita contro l'Atletico, io sì, l'ho fatto quella partita lì, sia andata che ritorno, dopo ha cominciato solamente a sbracciare, molto nervoso differente con i propri compagni, ma questo va a demerito suo. Io assolutamente, lui è il numero uno di questa squadra, tutti glielo riconoscono, ma lo devi dimostrare sul campo. Con quell'atteggiamento non aiuta la squadra. Poco leader. Il numero uno dell'Inter chi è invece in questo momento? Perché poi è vero che tutti aspettano, e lo dice la classifica, l'abbiamo letta all'inizio: Napoli-Sampdoria 27, Lazio-Genoa 26, Milan 25, Fiorentina 24, Udinese-Palermo 22, poi arriva l'Inter a 20. Però è anche vero che di queste occasioni l'Inter in questa fase di campionato ne ha perse tante. Basti ricordare che contro Parma e Cagliari ha fatto 0 punti. Chi è il leader di questa Inter oggi? In questo momento secondo me non ce l'ha, ma deve arrivare attraverso il gioco. Nel senso, se voi guardate le ultime partite di Mancini, pur cercando di imporre il proprio gioco, è una squadra che rischia molto, ma è una mentalità che lui vuole dare a questa squadra. Guardate anche con il Chievo poteva andare in gol 2 o 3 volte, basta mancato l'ultimo passaggio, 2 grandi parate di Handanovic, però lui vuole creare una mentalità diversa, e in questo momento penso che il vero leader sia Mancini, perché nel nostro campionato abbiamo buoni allenatori ma non abbiamo grandi allenatori, e Mancini è un grande allenatore che può fare la differenza. Sì, questa sera non ha Osvaldo, gioca Palacio, che non segna da Inter-Lazio del 10 maggio. Da Inter-Lazio di un'era geologica 224 fa, giorni. Prima giornata coi fischi a Mazzarri, 225 giorni. L'assenza di Osvaldo credo possa pesare questa sera, perché alla fine dei tre mi sembra che fosse quello più in gamba, più in condizione. Ma sai, non lo so, perché ultimamente ha giocato veramente poco, nel senso ha giocato a Roma titolare, sì, quelle ultime due praticamente pochi minuti, è andato sempre con Icardi e Palacio, con Kovacic dietro, dovrebbe confermare più o meno la stessa formazione, capire chi farà il terzino sinistro, perché D'Ambrosio ha fatto molto bene a destra. A sinistra io opterei sempre per Nagatomo più che per Dodò, perché Dodò in fase difensiva deve crescere ancora molto, e quindi questa mi sembra una squadra già con 2 punti più un trequartista più Guarin, deve essere abbastanza coperta dietro, ecco, secondo me, e quindi questa è la formazione migliore che può mettere in campo lì. Comunque il test mi sembra molto azio anche mentale, perché sì, per esempio con l'Udinese si è vista una squadra che non aveva fatto cose clamorose ma stava controllando la partita, che poi si è sciolta nelle difficoltà. È chiaro che proprio per quello che sottolineavi tu, cioè il fatto che Mancini sta cercando di dare un certo tipo di mentalità positiva alla squadra, che però inevitabilmente ti espone a dei rischi, insomma ci può stare, soprattutto con un'ottima squadra contro la Lazio, che si possa subire, si possa anche prendere il gol. E io voglio capire stasera se l'Inter ha fatto un passo avanti da questo punto di vista, perché con tutto rispetto per il Chievo credo che insomma il test fosse ancora interlocutorio. Quello di stasera secondo me ci dirà qualcosa di più, e secondo me è un test anche per la Lazio, perché la Lazio in questa stagione ha iniziato male nelle primissime partite, perdendo fra l'altro con dei gol in contropiede contro il Milan, perdendo in maniera incredibile a Marassi, dove meritava almeno di pareggiare se non di vincere. Poi ha beccato una serie di risultati positivi, è arrivata la sfida contro la Juve, che sembrava potesse essere quella della svolta, ha perso, insomma, la sensazione è che sia sempre sul punto di fare il salto definitivo. Sì, però guarda che Pioli è un allenatore come Mancini, vuole dare questa mentalità. Pioli è dalla prima partita che vuoi giocare pressando in avanti, non scappare più indietro. Ha perso col Milan in contropiede. Sì, sì. Ricordi il primo gol della Juventus? Assolutamente, a Roma? In contropiede. Contropiede. Ma perché là? Quindi stasera possiamo vedere una partita bloccata, che non credo. Non credo. Invece vedo una partita con dei gol, perché Pioli non verrà qui a difendersi, verrà qui per attaccare, per far la gara. Potremmo vedere una bella gara stasera. Certo, arrivare a Natale terzo da solo a meno 7 dalla Roma sarebbe una cosa grande, per la Lazio, per Pioli e pure per Lotito, sempre sbeffeggiata e sbucciata dalle parti. Sottovalutata questa Lazio. Quest'anno un'ottima squadra, ma sottovalutata perché De Vrij l'abbiamo visto durante il mondiale. Che giocatore poteva essere? Non dimentichiamoci che Gentiletti, che era l'altro centrale di difesa che doveva dare la continuità, si è spaccato subito. Basta stato fuori per 40 giorni e comunque era uno dei giocatori che piacevano alle grandissime squadre, no? Basta, il classico nome che veniva sempre fatto. A centrocampo è stato preso Parolo per una cifra comunque non trascendentale, e parliamo di uno dei centrocampisti migliori dell'anno scorso. È una squadra di prestazione e poi una squadra che comunque resiste alle sirene, non vende Candreva e alla fine fa sbocciare uno come Djordjevic. E la Lazio stasera potrebbe essere terza, e ancora Keita praticamente in questa stagione non si è mai visto, ha avuto un sacco di problemi, Klose così, certo c'è stato un grande Mauri fino a questo momento, ma insomma secondo me ha ancora dei margini di miglioramento questa squadra. Sì, sicuramente tu hai preparato la partita e hai visto che i 16 gol li hanno fatti i centrocampisti, certo. Quindi questa squadra che sfrutta molto gli inserimenti di Parolo, di Mauri, insomma, di tutti questi centrocampisti che arrivano da dietro. Centravanti sì, conta fino a un certo punto per far giocare bene la squadra, ma sono i centrocampisti la vera forza di questa squadra. E poi l'ultima cosa, Felipe Anderson, perché Felipe Anderson è uno di quei giocatori dei quali si intravede il presente, il futuro, il margine di crescita può essere clamoroso, perché ci ha fatto già vedere delle cose veramente di altissimo livello, per cui se si incastrano 3-4 tasselli, insomma, la Lazio non dico che è da primo posto, perché non lo è, ma è da altissima classifica. No, ma la Lazio è certamente competitiva per quel terzo posto già quest'anno, soprattutto se il Napoli continua a camminare invece che a correre. Zio, se hai un minuto, tanto abiti vicino a San Siro, te lo chiedo, perché poi vi voglio far sentire Mancini che annuncia il nuovo acquisto dell'Inter, e così chiudiamo, perché oggi è importante, anche perché diciamo la verità, se resta lì attaccato al terzo posto magari Toir lo convince a fare qualcosa di importante a gennaio, altrimenti diventa tutto più complicato. Traffico. Tutti convocati. Deve essere un giocatore molto forte, velocissimo, tecnicamente straordinario, che fa anche dei gol. Stiamo cercando quello, perché se no è meglio non prendere nessuno. Se dobbiamo cercare chi? Se dobbiamo cercare un giocatore che magari è solo capace di attaccare e non a difendere e non è tecnico, è meglio rimanere così. E quindi, zio, è meglio rimanere così, perché Cristiano Ronaldo mi pare fuori budget per l'Inter, no? Sì, no, io penso che Roberto, magari anche a differenza un po' di Mazzarri, lavora molto con la società, anche sotto l'aspetto del mercato, andare a prendere determinati giocatori. Io penso che lui insisterà per avere un giocatore che soprattutto esternamente possa saltare l'uomo, possa ribaltare l'azione velocemente, magari fare difesa un po' più bassa, un po' come fa il Milan, puoi avere davanti giocatori che ti possono fare 50-60 metri e ribaltare il campo in velocità. Cioè Cerci, Lavezzi? Cerci va bene, però non difende molto, questo dobbiamo ricordarglielo a Roberto, forse lo sa meglio di noi. Lavezzi un po' di più. Gabbiadini poteva andare bene. Gabbiadini era perfetto, sicuramente era perfetto. Aveva quel piccolo problema di costare una dozzina di milioni di euro, no? Esatto. Però noi non vogliamo essere quelli che controllano, però siamo al Sole 24 Ore, non possiamo far finta che non esista. Anche perché l'Inter l'investimento già l'ha fatto per Mancini, insomma, i soldi non è che sono infiniti, è un investimento decisivo, perché comunque non si andava più avanti con Mazzarri dal punto di vista ambientale, però l'investimento non è da poco. No, assolutamente, hai ragione. E quindi chi prendono? non lo so, io cercherei in questo momento, Pierre, di cercare di valorizzare chi hai a disposizione. Cioè, nel senso, io nella mia testa io non riesco a capire come mai uno come Guarin non riesca a fare 7-8 gol a campionato, con la forza che ha, col tiro che ha, con gli inserimenti. È l'uomo assist dell'Inter, ha fatto 3 assist anche. Riuscire lui, Hernanes, perché se poi tu Hernanes non si è mai visto all'Inter. Io volevo capire Hernanes se secondo te ci sono ancora dei margini di rientro nelle gerarchie. Dipende tanto da Guarin. Se Guarin non alza il suo rendimento, entra dentro Hernanes. Io penso questo, perché se no non riesco a capire. Perché ho parlato una volta con Roberto, lui lo ritiene un giocatore importante, però è stato un investimento l'anno scorso a gennaio, che l'Inter ha in bilancio 22 milioni, sono tanti, certo. È stato un investimento incredibile, ecco. Però non ha reso sicuramente per quello che si aspettava. E più in piccolo, insomma, un altro dubbio è Vidic, nel senso che comunque adesso che l'Inter ha cominciato a giocare con un modulo che Vidic conosce molto bene... Oggi l'ottimo Max Nerozzi da Doha ha twittato: la Juve pensa a Rolando, ma c'è anche un'idea Vidic per gennaio, per quel difensore centrale che Allegri sta cercando per completare il reparto, anche perché di Barzagli si sono perse le tracce. Comunque abbiamo capito che non sarà Cristiano Ronaldo, forse non sarà nemmeno Lavezzi, perché credo che per i problemi sopra citati di bilancio qualche difficoltà si possa incontrare. Magari sarà Cerci, magari saranno due, però le idee di Mancini sono abbastanza chiare. A gennaio, Toir permettendo, lì, si deve lavorare sugli esterni d'attacco e poi tutto il resto verrà dopo. Grazie zio. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie a Beppe Bergomi, poi il resto si verrà dopo. Buonasera. Presidente, buonasera. Buonasera, Presidente. Prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di gioco per essere padroni di gioco. Nel campo. Nel e campo questo, gioco. Del vostro studio, e questo è il migliore augurio per un Natale coeso e molto positivo. Sì, grazie, Presidente. Anche se sono riapparse le mele marce. Dove? Quindi credo che il gruppo non sia completamente coeso. Sì, ma lei ce l'ha con Pardo. Lei ce l'ha con Pardo. Ma io sono la mela marce. Perché mela marce? Io sono guardate, non cambierei mai la vostra rosa con la rosa di nessun'altra radio. Ma senza mele marce, la squadra sarà più coesa, più positiva, nonostante il cambio di formula di gioco. E adesso io dico 1, 2, 3 e voi dite: Presidente, lei ha ragione. Perfetto, sì. Andiamo. Allora, siete preparati? Sì, prego, Presidente. 1, 2, 3 Presidente, lei ha ragione. Ma ha visto che Pardo si impegna, non è vero che è una mela marcia? State migliorando. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Oltretutto gli ascoltatori non possono farvi niente, certo, perché sono lontani dal vostro studio. C'è la pista. C'è la pista. Alcuni sono anche vicini, comunque, insomma, non so. Scusate. Sì, noi la dobbiamo salutare. Devo andare a Cesano Boscone a fare il presepe vivente e, come potete immaginare, rappresenterò a mia immagine e somiglianza Gesù. Così il presepe sarà più coeso e molto positivo. Sì, ma di questa cosa che non siete più il club più titolato del mondo, Presidente. Non faccia provocazioni, restiamo in ogni caso il club più titolato, quantomeno il miglior club del mondo. E adesso io dico 1, 2, 3 Presidente, lei ha ragione. Sì, ha ragione. Non posso sfasare. Arrivederci. Avrà notato che taluni colpa delle mele marce. Ma con la buccia o senso? Ma perché? Perché? Che gli hai fatto? Ma non ce l'aveva con me. Ad Andro, ce l'aveva con te, perché settimana scorsa, quando sei andato via, ha richiamato e ha detto: dire, vedo finalmente che non ci sono più mele marce. Incredibile, io lavoro anche a Mediaset, tra l'altro, quindi è un controsenso. Bene, vedo che c'è entusiasmo. Chi abbiamo in linea? Senti, cosa ne pensi delle parole di Buffon, che ho già detto, il tecnico precedente, riferendosi a Conte, ha fatto un ottimo lavoro, ma senza di noi, senza la società, non si sarebbe raggiunto nessun risultato. Altro bollo sulla pratica di divorzio tra Conte e la Juventus. Appunto, insomma, io diciamo, volendo pensare male, può sembrare una dichiarazione un po' orologeria indotta dalla Juve, però troppa stima per Buffon. Ma tu per pensi pensare male, che... no. Ma no, ma ragazzi, io penso questo, che Conte, che questi primi quattro mesi di Allegri hanno dimostrato, con tutto il rispetto e l'ammirazione mia personale, che conta zero, ma dei tifosi della Juve, degli appassionati di calcio, di quelli che odiano la Juve, di tutti, che Conte è un grande allenatore, l'ha dimostrato in tre anni la Juve, ma che la Juve chiaramente, come dice giustamente Buffon, ha ottenuto questi risultati perché ha una storia molto forte, una struttura societaria, una rosa di giocatori veramente di altissimo livello, parafrasando Berlusconi, migliore di tutti, comunque insomma quelli che se la possono giocare con tutti a livello di calcio italiano, e quindi poi alla fine è andato via Conte, è arrivato Allegri e sta facendo altrettanto bene. Una dichiarazione di stima nei confronti di Allegri, vuol dire che ma certo, è, certo, il fatto che sia arrivata anche la sì, il fatto che sia arrivata, ma quello lo vedi con risultati, cioè non c'era bisogno di queste parole di Buffon, no, certo, per capirlo. Queste parole di Buffon, se vogliamo pensare male, possono in qualche modo essere legate al fatto che c'è in questo momento un'aspra tensione fra Juve e Roma, fra l'altro insieme in particolar modo, e Nazionale e Conte per il discorso degli stage, ma insomma francamente è il campo, no? Conta il campo, e il campo ci ha detto che la Juve, i giocatori della Juve si fidano di Allegri perché stanno facendo molto bene. E che se c'è da lanciare una frecciatina a Conte, non si tirano indietro. Intanto pareggio del Liverpool al 96esimo. Colpo di testa di Skrtel, no, Balotelli non gioca, non ha giocato, non è nemmeno in panchina. Partita con un recupero lunghissimo, 9 minuti, perché c'era stato un infortunio a Skrtel, che di fatti gioca con una bandana evidentissima. È proprio la sintesi di Liverpool e Arsenal, 2-2 non serve a nessuno, proprio veramente. Che di testa, 97esimo, ha messo dentro il gol del 2-2. Just can't believe it, Capuano. Abbiamo un minuto. Pronostico di stasera e pronostico di domani, la Supercoppa. Lo specialista. Stasera già l'avevo fatto. Ho beccato il derby di Verona. Penso che ho fatto 3 gol in fuorigioco. Ho capito che c'entra. Allora vale tutto. Sassuolo Cesena, ho sbagliato al 97esimo, pareggio. Inter Lazio già l'avevo fatto. Che avevo detto? 2? Non lo so, che avevi detto? 2? Forse 2. Allora andiamo agli altri. Dai, voglio giocarmi. Poi guarda, voglio giocare il rischio. Vincono Lazio e Napoli. Vincono Lazio e Napoli, Carlo. Vincono Inter e Napoli. Secondo me invece vince la Juventus. Sicuramente questa sera finisce 1-1. Che non serve a nessuno. Capuano sui pronostici è nettamente il più bravo. È vero. Fatto 4. Perché sceglie sempre, capito? Sceglie sempre la quota bassa, il pronostico facile. Non è fantasista come noi. Sono uno speculatore. Che andiamo lì a rischiarcela. Quanto sarà quotata la Lazio stasera? E Napoli domani? E Napoli domani, ho capito. Si vive una volta sola. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Sbagliamo sempre. Voi domani tornate alle 14. È chiaro. Voi domani alle 14. Si parte tra poco. Inizia la sfida. Solo un gioco. Io non so se vengo. Antichi miti. Antichi miti. Che cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? Vediamo se siete preparati. C'è il GR e poi. Non lo so. Come lo sai? Un gioco antico. Noi invece ci risentiamo domenica prossima, che andiamo in onda comunque, anche se è durante le vacanze di Natale. C'è soundcheck. Io ringrazio. Lo so a memoria. Adesso c'è il GR, poi c'è soundcheck. E stasera soundcheck ci occuperemo di Sandy Martin. No. Mi fai salutare Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Paolo Corleone, Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Arrivederci e grazie. Baci e pace bene a tutti.